24 mattino. Buongiorno, buon 6 di gennaio, giorno dell'Epifania, da Giulia Crivelli. Una giornata che, come avete sentito nei GR, è segnata dalle notizie che arrivano dal Medio Oriente, quindi noi abbiamo deciso di anticipare a questo pezzo di 24 mattino un'occhiata ai giornali stranieri. Poi daremo un'occhiata ai titoli dei giornali italiani, che con pochissime eccezioni sono tutti dedicati a quello che sta succedendo in Medio Oriente. Naturalmente le conseguenze dell'uccisione tra la notte di giovedì e venerdì del generale iraniano Soleimani vicino all'aeroporto di Baghdad in Iraq, quindi principalmente sono le reazioni in Iran e in Iraq, e naturalmente degli Stati Uniti, e le controreazioni degli Stati Uniti. Poi cercheremo anche di parlare di altre notizie che troviamo sui giornali. Dalle 8:15 alle 8:30 avremo ospite Ugo Tramballi, che per tantissimi anni è stato ha lavorato per il Sole 24 Ore e lavora ancora, per fortuna, per il Sole 24 Ore, e soprattutto commenta alla luce della sua lunghissima esperienza di corrispondente da varie parti del mondo e inviato in varie parti del mondo per il Sole 24 Ore. E poi subito dopo le 8:30 alle 9 cambieremo un pochino argomento per un approfondimento sulle carceri. Cominciamo quindi da Financial Times, che titola così: l'Iran si ritira, rolls out dall'accordo sul nucleare, perché sapete che questo accordo faticosamente raggiunto quando ancora presidente degli Stati Uniti era Barack Obama, dal quale poi si è già sfilato, si sono già ritirati gli Stati Uniti con l'amministrazione Trump. Restava in vigore tra l'Iran, la Cina, l'Unione Europea e il Giappone. Adesso sì, l'Iran ha annunciato che si sfilerà da questo accordo, che prevedeva, possiamo dire, anche la fine dell'arricchimento, per esempio, dell'uranio, che naturalmente è la premessa per poi avere un vero e proprio arsenale nucleare. L'Iran ha sempre detto che la ricerca e gli investimenti in nucleare erano soprattutto per l'energia nucleare, poco creduto, perché l'Iran ha quasi il triplo di riserve petrolifere dell'Arabia Saudita, per darvi un'idea, di gas naturale ha le riserve più grandi del mondo. Quindi capite che credere che lo facesse per avere energia nucleare non era una tesi credibile. Lo fa naturalmente appunto in vista del rafforzamento dell'arsenale nucleare, che tra l'altro, secondo alcuni analisti, l'Iran già ha. Il Financial Times parla anche della decisione dell'Iraq, l'altro grande paese coinvolto. Sapete che i primi funerali con la bara che ha attraversato la capitale Baghdad sono stati già sabato. Ieri c'è stato un primo funerale in Iran, e adesso proseguirà, più che funerale, proprio il passaggio del convoglio funebre. E poi proseguiranno, ci saranno ancora altri appuntamenti, e la foto di Financial Times è di questo convoglio funebre, veramente tutto intorno una folla gremitissima. Quindi l'Iraq invece parla di ritiro delle truppe americane, perché nello scenario geopolitico di quell'area c'erano comunque molte truppe americane in Iraq, e in particolare naturalmente a Baghdad. L'altro tema di Financial Times, che per fortuna, perché purtroppo sui giornali italiani oggi questa notizia proprio non c'è, è naturalmente l'Australia in fiamme. Per darvi un'idea, in Australia sono già bruciati in 2 mesi di incendi, i più gravi nella storia dell'Australia, 5 milioni di ettari. Per darvi il confronto, gli incendi della California, che hanno devastato la California, erano meno di 2 milioni, e gli incendi in Amazzonia, di cui si è parlato tantissimo, meno di 1 milione di ettari. Quindi in Australia siamo a 5 milioni di ettari, tanto che Financial Times usa quella espressione molto evocativa anche in paesi anglosassoni, che è quando Roma brucia, il riferimento naturalmente a Nerone, che mentre Roma bruciava si occupava d'altro. Il tema è appunto, da una parte, le difficoltà in questo momento del premier australiano, che è accusato prima di tutto di essere comunque andato in vacanza all'inizio dell'emergenza incendi, perché in Australia è estate, quindi anche lì si fanno le ferie estive. E poi adesso comunque di essere di fatto impotente. E ieri sera sentivo un ambientalista che diceva: pensate se le risorse che in questo momento sono dedicate alle varie, ai vari focolai di guerra fossero dedicate per esempio a mandare aerei che facessero piovere aria, acqua sull'Australia. In realtà le ultimissime notizie meteorologiche, ne danno conto alcuni siti, dicono che ci sarà una piccola pioggia in Australia assolutamente insufficiente a spegnere gli incendi. Dalla prima pagina di Financial Times, che ha anche altre notizie, vi segnalo il Data Watch, perché è la cifra che ogni giorno Financial Times dà, così una fotografia, una statistica in breve, e oggi è dedicata al tasso di divorzi. L'Italia non c'è tra i primi 10 paesi, il paese dove si divorzia di più, il 5% su ogni 1000 persone, è la Russia, seguita da Ucraina, Danimarca, Stati Uniti, Iran, Egitto, Francia, Regno Unito, Giappone e Irlanda. Quindi vi dicevo, poi le pagine dedicate al disastro ecologico di cui l'Australia è forse in questo momento è il segnale più grave. Alcuni pensano, forse a torto, forse a ragione, sono questioni scientifiche molto dibattute, che comunque gli incendi in Australia siano l'ennesimo segnale del climate change, del cambiamento climatico. Vi segnalo anche da Financial Times, lo trovate poi anche online, nella edizione Weekend aveva invece pubblicato una mappa, che è davvero in un grafico dà l'idea innanzitutto dell'area medio orientale, dividendo con tre colori diversi le nazioni che sono comunque simpatetiche, così sympathetic in inglese, cioè vuol dire che comunque simpatizzano per l'Iran, quelle che sono neutrali e quelle che sono invece chiaramente degli oppositori. Tra queste naturalmente c'è l'Arabia Saudita, mentre diciamo neutrali in questo momento, ma c'è naturalmente tutta la questione Libia che ha un suo ruolo, sono la Turchia, l'Afghanistan, il Pakistan e l'Oman, mentre decisamente favorevoli, e sempre di più pare sarà così, la Siria e l'Iraq. Dalle due quotidiani israeliani, Jerusalem Post e Haaretz, ci si focalizza su quello che potrebbe essere la reazione degli Stati Uniti, ma anche del suo principale alleato nell'area, per l'appunto Israele. Naturalmente c'è molta preoccupazione, un po' diversi toni tra i due quotidiani, perché Jerusalem Post è più conservatore, Haaretz meno, ma naturalmente in queste situazioni la preoccupazione principale è la sicurezza di Israele. Un'analisi, una delle tante analisi è quella che è intitolata così: la politica estera degli Stati Uniti di nuovo si incrocia con una campagna elettorale. È l'accusa che per esempio di cui danno conto tantissimi network e il New York Times, che ha fatto ieri Elizabeth Warren, che è una delle candidate alle primarie dei democratici, che decideranno chi sfiderà Donald Trump alle elezioni del 2020. Elizabeth Warren ha detto ieri in un'intervista alla CNN: la mossa di Trump è chiaramente legata alla sua campagna elettorale. Altri retroscena sono andati a pescare le dichiarazioni di Trump sulle mani di appena 2 o 3 anni fa. Diceva a una domanda di un giornalista, aveva risposto di non sapere neanche chi fosse questo signore. Naturalmente adesso invece sa molto bene chi è. Vi segnalo anche il Tehran Times, in questo caso quello di ieri, con le foto degli iracheni che piangono sulle mani, perché appunto questo era il primo, diciamo, primo funerale, cioè quello di sabato a Baghdad. Il titolo, un altro tema naturalmente economico, ne danno conto moltissimi quotidiani, anche il Wall Street Journal, è quello che farà il petrolio quando riapriranno ufficialmente tutti i mercati. Molti prevedono che si arriverà ai $70 a barile. Vi segnalo anche poi invece l'apertura di Le Figaro, principale quotidiano francese, che da una parte è un'apertura interna, perché naturalmente tutti questi paesi, come vedremo anche i quotidiani italiani, danno naturalmente conto anche delle questioni interne. Quindi l'apertura è sulla riforma delle pensioni e secondo Le Figaro il governo che ora cerca veramente un compromesso, perché come sapete siamo a settimane di scioperi che stanno paralizzando Parigi e l'intera Francia. Però la fotonotizia è dedicata all'Iran e la marea umana, così la definisce Le Figaro, che ha attraversato le strade di Teheran e non solo. La preoccupazione naturalmente in Francia è molto alta, perché con i richiami alla jihad da vari leader musulmani e la quantità di musulmani anche radicalizzati che ci sono in Francia, naturalmente crescono anche le preoccupazioni interne per eventuali attentati. Ora ci lasciamo un attimo per una pausa, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo e ci ritroviamo subito dopo. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Vi segnalo, dopo gli altri quotidiani stranieri che vi ho segnalato, anche quelli britannici, perché ieri Boris Johnson ha parlato al telefono con Donald Trump. Il titolo del Daily Mail, per esempio, è Johnson, il premier, fa il funambolo sull'Iran. Questo è un quotidiano molto conservatore, e così rispondo parzialmente anche a Pietro da Foggia, che così presto al mattino si esercita, devo dire, più che in messaggi, in quantità di emoticon. Due giorni fa erano 5 braccini di ferro, oggi sono io, credo, con la mano alzata. Insomma, mi dice che riesco a essere sempre rossa. Comunque, e dice che se mi ascoltassero negli Stati Uniti farei guadagnare 2 punti a Trump. Va bene, Pietro. Comunque vedo che nonostante sia molto critico, ha l'attenzione di ascoltarci a quest'ora del mattino, per di più in un giorno di festa. Ma vi dicevo, Boris Johnson che parla al telefono con Donald Trump, e il Daily Mail titola: Johnson alla fine rompe il silenzio, sostiene Trump, ma dice che il Regno Unito non piangerà la morte del generale, però allo stesso tempo invita tutti alla calma. Quindi alla fine, insomma, la paura che ci sia un'escalation di questo attraversa veramente tutti i paesi, anche i quotidiani tedeschi naturalmente danno conto dei recenti fatti, cioè la decisione dell'Iran annunciata di ritirarsi ufficialmente dall'accordo nucleare internazionale, e poi anche la decisione annunciata dall'Iraq. Qui manca però un passaggio parlamentare e un passaggio del governo per appunto decidere che le forze americane devono lasciare il paese. Vi segnalo il Sole 24 Ore del lunedì, che come sempre è un numero di approfondimento, però abbiamo comunque una pagina eccezionalmente proprio dedicata che parte dagli spunti di cronaca, e Moira Longo a pagina 7 che racconta: venti di guerre tra Stati Uniti e Iran, i mercati riaprono tra le tensioni, perché in questo momento sono le 7:35. Tra poco naturalmente apriranno, alle 9 ci sarà il pre-trading nei mercati europei, poi nel pomeriggio vedremo come vanno le borse americane, potremo anche vedere come sono già andate quelle asiatiche, però naturalmente c'è grande attesa, perché lo ricordiamo, l'uccisione da parte di un drone americano tra la notte di giovedì e venerdì ha già avuto conseguenze a mercati aperti venerdì, soprattutto sul prezzo del petrolio e sull'andamento di alcuni titoli che al prezzo del petrolio sono molto legati, come quelli delle compagnie aeree, però non si è visto alcuno scossone. Vediamo cosa succederà oggi. E infatti a pagina 7 Moria Longo ci dice gli scenari per le borse mondiali dopo l'uccisione del generale Soleimani. Vi leggo il richiamo in prima e poi trovate tutto a pagina 7. Gli occhi erano puntati sull'accordo tra Stati Uniti e Cina, su Brexit, sull'andamento dell'economia, sulle banche centrali. Invece il 2020 è iniziato per i mercati finanziari con un'incertezza nuova, i venti di guerra tra Stati Uniti e Iran. In borsa, nonostante il calo di venerdì, resta la cautela. L'opinione prevalente è che il blitz con cui gli americani hanno ucciso un generale iraniano sia solo un episodio non in grado di cambiare l'umore positivo dei mercati. Sapete che la prima seduta di Wall Street dell'anno è stata una seduta ottima. ma il rischio è che parta un'escalation bellica in un'area geografica troppo importante per l'economia mondiale, ma troppo instabile politicamente. Sui mercati c'è una nuova fonte di incertezza. Poi l'apertura vera e propria, e vedremo nell'ultima parte alcuni altri temi sui giornali di oggi, è dedicata alla RC Auto, costi dimezzati per 2 milioni di famiglie, una delle tante novità del decreto fiscale che offre più possibilità di fruire della stessa classe di merito maturata dal guidatore più virtuoso della famiglia. Poi vi segnalo la Repubblica, partiamo dalla Repubblica perché il titolo di apertura è questo, tra virgolette, i nostri soldati restano, perché Repubblica ha una lunga intervista di Stefano Cappellini al premier Giuseppe Conte. Se devo dirvi la verità, secondo me questa non è stata un'intervista fatta a voce ma per iscritto, perché a voce non si... benché Conte sia molto così barocco nel suo linguaggio, in realtà credo che non parlerebbe così con un interlocutore. In ogni caso vi leggo è un'intervista lunghissima dove Conte parla di tutto, anche di autostrade, di legge elettorale, di prescrizione, di tutti i temi che vedranno impegnato il governo in questi giorni, ma vi leggo soprattutto le domande e le risposte che riguardano la questione del Medio Oriente. Chiede Stefano Cappellini, l'ex premier D'Alema suggerisce all'Italia di promuovere una missione dell'Unione Europea sul campo. È d'accordo? Io personalmente, tra l'altro, aggiungo che da D'Alema, che è originario pugliese, più che esternazioni su queste questioni, a me piacerebbe sentire una parola sulla vicenda della Popolare di Bari, ma su quello è stato completamente silente. Intanto però dà consigli sulla missione UE. Conte risponde, come sa l'Italia è già presente in Iraq nel quadro della coalizione antiterrorismo. Ecco, ricordiamo che questa presenza militare è esattamente quella che l'Iraq ha annunciato di voler fuori dal paese. E dice ancora Conte, non c'è dubbio che in questa fase l'Unione Europea possa avere un ruolo strategico ed è necessario delineare rapidamente modalità con cui svolgere questo ruolo, capitalizzando il valore aggiunto che l'Europa può dare rispetto ad altri attori. Al momento la priorità va, come detto, a favorire un abbassamento della tensione attraverso i canali della diplomazia. Chiede Cappellini. Lei ha ricevuto un endorsement diretto da Trump poco prima della formazione del nuovo esecutivo. Ricorderete il tweet dove prima veniva chiamato Giuseppi, soprannome che purtroppo Giuseppe Conte non si è mai più tolto per alcuni giornali di centrodestra come La Verità e Libero. E poi dopo c'è stato il tweet in cui in realtà Trump si è corretto chiamandolo Giuseppe con la E finale. Dice ancora Cappellini nella domanda, ma governa con una forza, il PD, naturalmente vicina ai democratici USA, rischia di essere un'altra contraddizione in seno alla politica estera del governo? E risponde Conte, la profondità e l'ampiezza delle nostre storiche relazioni con gli Stati Uniti nei loro diversi profili politico, economico, ma anche culturale e umano sono tali da prescindere dai rapporti tra singole forze politiche, anche se naturalmente le relazioni, anche personali, fra le rispettive leadership possono avere il loro peso. Di certo nel governo c'è piena condivisione dell'assoluta centralità del rapporto transatlantico, come dimostra ad esempio la presenza del ministro Guerini al mio fianco al vertice NATO di Londra dello scorso dicembre. Perché dice questo Conte? Perché il ministro Guerini, che è il ministro della difesa, è anche esponente del PD, e ci mancherebbe altro che il ministro della difesa di un governo, benché espressione del PD, non andasse al vertice NATO. Comunque domani ce ne sarà, oggi ce ne sarà uno di emergenza, quindi vedremo. Dalla Repubblica vi segnalo anche un'intervista di Anna Lombardi a John Limbert, che oggi ha 77 anni e nel 1979 fu uno di quei 52 ostaggi nell'ambasciata americana a Teheran e forse anche uno dei più famosi, perché apparse in televisione per dimostrare che non erano trattati male. Siccome Trump ha detto abbiamo 52 siti iraniani nel mirino perché 52 furono appunto gli ostaggi, John Limbert in questa intervista ad Anna Lombardi dice nel 1979 ero tra gli ostaggi ma niente raid in mio nome. E chiede Anna Lombardi, secondo lei cosa passa nella mente degli iraniani in questo momento? E lui con franchezza risponde, non sono mai più tornato in quel paese, non voglio fare speculazioni, ma Trump a noi americani sembra spesso ipocrita, è probabile sia visto così anche fuori. La mia impressione è che di Teheran non gli importi granché, non quanto ad alcuni membri della sua amministrazione o a Israele, che preferisce un Iran palesemente nemico. Perché una decisione così grave allora? vuole andare nella direzione opposta a quella dei predecessori. Cancellare l'accordo sul nucleare è stato un errore, perché dopo 40 anni non siamo certo diventati amici degli iraniani, ma avevamo stabilito un canale di comunicazione. La direzione intrapresa ora potrebbe provocare un nuovo disastro in Medio Oriente, e in quella regione di disastri ne abbiamo già visti troppi. E questo era Repubblica. Dalla Repubblica vi segnalo anche poi a pagina 27 il commento di Stefano Folli, che si intitola La tempesta e il giunco, e parla soprattutto del ruolo scarsissimo che sta avendo l'Italia e l'Unione Europea prima nella crisi libica e ora in questa crisi. E poi vi segnalo un bellissimo intervento di Enzo Bianchi, che è un monaco laico, ha fondato la comunità monastica di Bose in Piemonte e ha scritto molti libri, e qui il suo intervento si chiama Quando gridano le pietre. Vi leggo alcune parole. Una guerra mondiale combattuta a pezzi e su terre che non sono quelle dei contendenti. Questo è ciò che ancora una volta accade sotto i nostri occhi nel Medio Oriente, destando l'incubo di una guerra più estesa che potrebbe incendiare il Mediterraneo. Una sciagurata operazione di annientamento fisico del nemico apre infatti scenari di concreti rischi bellici, mentre si sta creando un'altra situazione critica in Libia, dove alcune potenze straniere potrebbero aprire una nuova sanguinosa battaglia. Questo tema appunto del fatto che nel 2020 non ci siamo liberati, noi paesi che ci consideriamo avanzati, dell'idea che i problemi si possano risolvere con le armi e appunto uccidendo fisicamente un nemico. Il Corriere della Sera: l'Iran lascia gli accordi sul nucleare, quindi un po' lo stesso titolo di Financial Times. Angelo Panebianco si chiede cosa farà l'Europa. Ci sono anche qui tantissimi commenti, tantissime interviste, oltre alla cronaca. Vi segnalo qui l'intervista di Andrea Nicastro, inviato a Beirut, a Anis Nakash, che era un amico del generale ucciso, e la sua opinione è che attacchi e petrolio alle stelle, così cacceremo gli Stati Uniti. E Nicastro chiede prima di tutto a Nakash: signor Nakash, chi è lei oggi? E lui risponde: un militante, come sono sempre stato, un libanese che lotta per la Palestina con l'aiuto degli iraniani. E un'altra domanda che riguarda precisamente Soleimani è: il generale Soleimani non aveva bisogno di soldi, era capo di un'organizzazione governativa. E risponde Nakash: infatti, in ogni discorso, lettera, preghiera, chiedeva il martirio, sperava accadesse, mai visto uno così. Era responsabile dell'intera regione, eppure era come un qualunque soldato in prima linea. Generale, è pericoloso, a volte gli dicevano. Bene, seguitami. L'ho visto agire così a Ghouta, in Siria. Era ovunque, nel sud del Libano nel 2006, a Mosul contro lo sceicco al-Baghdadi, ad Aleppo, a Baghdad. Era un Che Guevara moltiplicato per 10. Un approfondimento su questa idea di Trump di colpire 52 siti, tra cui alcuni siti storici, una scheda di Viviana Mazza a pagina 5 del Corriere della Sera. Bombe sui tesori storici, il no che unisce i rivali, la mobilitazione bipartisan sui social. Ora ci fermiamo un attimo per una pausa sul traffico. Mattino. Ancora buongiorno e buon 6 di gennaio da Giulia Crivelli. Completiamo un po' la carrellata delle prime pagine dei quotidiani italiani, poi spero avremo anche qualche minuto per dare anche qualche altra indicazione, qualche altro suggerimento su cosa leggere oggi dai quotidiani. La Stampa ha il titolo principale dedicato in realtà alla Libia, perché una delle conseguenze di quello che è successo in Iraq e poi in Iran è che è saltata la missione europea in Libia. Il doppio fronte della crisi, in bilico anche la conferenza di Berlino, mentre arrivano i soldati di Erdogan in Libia. La fotonotizia è stata scattata ieri a Teheran, con queste migliaia di persone in processione, in realtà non a Teheran, scusatemi, ad Avaz, per commemorare il generale Qassem Soleimani. Baghdad, via i soldati USA, quindi l'annuncio dell'Iraq. L'Iran riprende la corsa all'atomica. Anche qui tantissimi commenti. Vi segnalo invece la prima pagina del Messaggero, l'Iraq due punti via le truppe americane, poi sul Messaggero, come vedremo, ci sono anche altre notizie che riguardano soprattutto la crisi dei rifiuti a Roma. Il Libero, scoppia il tifo per l'Islam. Abbiamo i talebani in casa, governo, giornali e TG piangono per l'eliminazione del boia iraniano antisemita e per evitare le ritorsioni di Teheran si prostrano verso la Mecca. Attenzione a queste ultime 6-7 parole e vi ricordo ancora una volta che questo giornale è finanziato con soldi pubblici, è l'unico quotidiano che ambisce a essere nazionale ormai ad avere ancora questi finanziamenti. E le ultime 7 parole del titolo, del sommario del titolo di Libero di oggi è: mostrando il sedere a Stati Uniti e Occidente. Però la fotonotizia invece è dedicata a un'intervista che poi trovate a pagina 10 a Cristiano Malgioglio, personaggio televisivo, e il titolo è: ridete pure di noi omosessuali, e gli dice, e dice anche: la gonna mi piace. Molto bene. Dalla Verità invece: la maxi inchiesta sul CSM rischia il flop, ma intanto la sinistra si è presa tutto. E c'è la notizia che poi approfondirete e sentirete approfondita nel GR delle 8, la questione di Rula Gebral, la giornalista con doppio passaporto italiano-israeliano, che un po' in ombra negli ultimi anni avrebbe avuto questo momento di visibilità a Sanremo, ma pare che la RAI abbia deciso che no, a Sanremo Rula Gebral a presentare il festival accanto a Amadeus non ci deve andare, e quindi Renziani e Grillini uniti per la Gebral, la RAI deve portarla a Sanremo. E Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, si esercita poi in una pagina intera che appunto è richiamata da questa fotonotizia a pagina 5, però in prima pagina c'è anche la notizia sull'Iraq che invece non c'è sul giornale, come vedremo. L'Iraq ora chiede agli Stati Uniti di ritirarsi. Dalla Verità vi segnalo anche un'intervista di Daniele Capezzone a Vincenzo Santo, generale di Corpo d'Armata, che dice: Iran e Libia, l'Italia si deve muovere. Vi dicevo il giornale: il conto segreto di Di Maio e soci, tesoretto Grillino, nessuno può vedere che fine fa il denaro dei rimborsi. Questa è l'apertura del giornale. La foto invece è quella di Papa Francesco. La notizia sul Medio Oriente di Iran non c'è traccia nei titoli, ma si parla della Turchia che invade la Libia. E poi Roma, massima allerta per la messa di oggi di Papa Francesco. E dispiace appunto non vedere comunque un richiamo in prima pagina, perché al giornale lavora Fausto Biloslavo, che sicuramente è super esperto di politica estera di Medio Oriente. Il suo commento c'è, però è a pagina 4: Donald e le armi a doppio taglio, i rischi, ritorno dell'ISIS, italiani nei guai e minaccia nucleare. Il Fatto Quotidiano: gli iracheni, due punti, a casa le truppe occidentali, e il Fatto Quotidiano: accontentiamoli. Vi segnalo oggi appunto, vediamo anche gli altri quotidiani, il Mattino di Napoli: Iran, la minaccia atomica, Teheran cancella gli accordi sul nucleare, il Parlamento iracheno via gli americani, Trump alza il tiro, colpiremo i siti archeologici. E poi c'è nel sommario del Mattino anche il riferimento all'attacco in Kenya, dove sono stati uccisi 3 militari. Il Tempo: Trump all'Iran, se ci colpite la risposta sarà dura. Il Tempo è un quotidiano di Roma. Il Gazzettino: Iran, USA, rabbia e vendetta. L'Unione Sarda invece, un quotidiano di Cagliari, si concentra oggi sulla partita che ci sarà. Il Cagliari oggi prova a fermare Cristiano Ronaldo, e poi l'abbraccio del nuovo arcivescovo. La Gazzetta di Bari invece ha molte notizie locali, anche in questo caso non c'è la notizia appunto internazionale, però ci sono le altre notizie di cronaca, e comprese le situazioni meteorologiche particolari della Puglia e di Bari in particolare. Torniamo, facciamo come vi dicevo in questi ultimi 6 minuti che ci restano, anche qualche cenno alle altre notizie sui giornali di oggi. Con il Sole 24 Ore come ogni lunedì in edicola l'esperto risponde, oggi il focus è su fisco e pensioni, come comportarsi quando si desidera trasferirsi all'estero. dalle pagine interne, dove ci sono molti approfondimenti sulla manovra, anche per esempio quello sull'università. Le iscrizioni universitarie, di cui avete sentito, si parlerà anche di scuola in generale e di università alle 10. Qui a pagina 6, approfondimento di Eugenio Bruno, Atenei a corto di nuovi iscritti. Poi, per quanto riguarda la manovra 2020, fisco e immobili, un approfondimento sui negozi, uscita costosa dalla cedolare secca, ma per i vecchi affitti restano gli sconti. E poi, molto interessante, questo, l'apertura della sezione casa, che esce ogni lunedì con il Sole 24 Ore, l'architettura 2020 che non vuole pesare sul pianeta, quindi tutto il tema dell'architettura sostenibile. Paola Pierotti ci racconta che gli edifici più iconici in consegna quest'anno in tutto il mondo hanno un obiettivo comune: ridurre i consumi o persino produrre più energia di quella necessaria allo stabile. La sezione professioni, anche questa ogni lunedì con il Sole 20, all'interno del Sole 24 Ore, una pagina di Valeria Uva sul recruitment, cioè sulla procedura per scegliere i nuovi assunti negli studi professionali. Negli studi il 2020 fa rotta sui giovani con profili super. Purtroppo il tema appunto della sempre maggiore necessità di avere qualificazioni che vadano anche oltre la laurea torna appunto per il 2020. Il dorso Affari e Finanza in edicola ogni lunedì con Repubblica, 2.500 miliardi, questa è la cifra che campeggia sulla prima pagina, la corsa senza fine del debito pubblico, nuovi record in vista. Mentre il supplemento, che non trovo, del Corriere della Sera, dedicato sempre all'economia, quello che esce al lunedì, in realtà in copertina ha un'intervista che poi trovate all'interno all'amministratore legato della Fernet Branca. Vi dicevo, la questione Rula Gebral lo sentirete poi anche nel GR delle 8, la Repubblica addirittura due pagine su questo tema. Sanremo, adesso la RAI è pronta a fare retromarcia sul no a Rula Gebral, sta diventando una telenovela. Annunciato per domani un vertice decisivo, la scelta di non farla salire sul palco dovuta alla campagna sovranista, non saprei cosa vuol dire. E c'è stato poi un intervento di Patuanelli che dice no alla censura, un'intervista di una pagina di Gad Lerner a Rula Gebral, che dice: io censurata perché rappresento l'Italia inclusiva e tollerante, questo fa paura. Cara Rula, io mi sento inclusiva e tollerante, ma non mi sento assolutamente rappresentata da te, sia detto per inciso. Poi il Corriere della Sera invece, con il quirinalista Marzio Breda, ha due pagine che prendono spunto dall'omicidio del fratello di Pier Santi Mattarella, del fratello quindi dell'attuale Presidente della Repubblica, anche perché con il Corriere ha in edicola con una biografia di Pier Santi Mattarella scritta da Giovanni Grasso, e quindi trovate appunto un po' il ricordo di quell'omicidio e anche il ricordo di questo democristiano, di questa figura all'epoca principale, una delle figure principali della Democrazia Cristiana e in particolare della Democrazia Cristiana in Sicilia. Dal Messaggero vi segnalo un aggiornamento su Alitalia. Per i nuovi soci ricominciamo da zero, sui commissari si cambia, e anche qui Patuanelli, che evidentemente spazia esterna sia su Rula Gebral che su Alitalia, e Ministro dello Sviluppo Economico, che dice: stiamo ricontattando tutti i potenziali partner, non solo Lufthansa, valida la nomina nella compagnia. Vi dicevo dal Messaggero l'approfondimento su una delle quelle che il Messaggero chiama le sette piaghe della città, che sono strade, trasporti, rifiuti, verde, decoro, conti e burocrazia. Oggi si concentra sui rifiuti, mezzi guasti, Roma invasa dai rifiuti, e l'AMA, la municipalizzata che si occupa appunto dei rifiuti, cerca camion a noleggio. Da Libero vi segnalo, abbiamo detto, uno dei nodi che il governo dovrà affrontare nei prossimi giorni è quello della riforma della giustizia, e in particolare il tema della prescrizione. Un'intervista a Luciano Violante, ex magistrato, esponente del PC e poi dei DS, presidente della Camera dal 1996 al 2001, che dice: il giustizialismo dei grillini costa caro agli innocenti. L'ex presidente Dem della Camera, un processato su due viene assolto, Movimento 5 Stelle fa il tifo per una società ingabbiata dal diritto penale che però gli si rivolterà contro. Altra intervista sempre su Libero all'ex ministro Giulia Bongiorno, che è stata ministro per la pubblica amministrazione nel primo governo Conte, ma è anche naturalmente avvocato. La Lega non ha ceduto a Bonafede, il PD sì. E questa era però l'ultima segnalazione per questa parte della rassegna stampa. Ora spazio al TG, poi al TG, al radiogiornale, poi ci sentiamo al GR naturalmente 24, poi ci sentiamo dopo verso le 8:15 e avremo ospite Ugo Tramballi e poi faremo un approfondimento nell'ultima parte di 24 Mattino sulla situazione delle carceri. E comunque per chi poi non sarà ancora sintonizzato alle 8:15, ancora buona giornata da Giulia Crivelli.